Ad alta voce. Tommaso Ragno legge Addio alle armi di Ernest Hemingway. Traduzione di Fernanda Pivano. La sera che dovevo ritornare al fronte, mandai il portiere a tenermi un posto sul treno quando arrivava da Torino. Il treno doveva partire a mezzanotte. Era formato a Torino e arrivava a Milano verso le 10:30 di sera e restava in stazione fino all'ora della partenza. Bisognava essere lì quando arrivava per trovare un posto. Il portiere portò con sé un amico, un mitragliere in licenza, che lavorava in una sartoria, ed era certo che fra tutti e due avrebbero tenuto un posto. Diedi loro il denaro per i biglietti d'ingresso e feci portare da loro il bagaglio. Era un grosso zaino e due tascapani. Mi congedai dall'ospedale verso le 5 e uscii. Il portiere mise il mio bagaglio nel suo stanzino e gli dissi che sarei arrivato alla stazione un po' prima di mezzanotte. La moglie mi chiamò signorino e pianse. Si asciugò gli occhi e mi strinse la mano e poi ricominciò a piangere. Le batté la mano sulla schiena e lei pianse di nuovo. Mi aveva rammendato la roba ed era una donna molto bassa e tozza e aveva la faccia contenta e i capelli bianchi. Quando piangeva le si disfaceva tutta la faccia. Andai all'angolo dove c'era la bottiglieria e aspettai dentro guardando dalla finestra. Fuori c'era buio e freddo e nebbia. Pagai il caffè e la grappa e guardai la gente passare nella luce della vetrina. Vidi Catherine e bussai nella vetrina. Lei mi guardò, mi vide e sorrisi e io uscii a incontrarla. Aveva una mantella blu scura e un cappello morbido di feltro. Passeggiamo insieme lungo il marciapiede e oltre la bottiglieria, poi attraverso la piazza del mercato e su per la strada sotto l'archivolto che dava sulla piazza del Duomo. C'erano le rotaie del tram e più in là la cattedrale. Era bianca e umida nella nebbia. Attraversammo le rotaie del tram. Sulla nostra sinistra c'erano i negozi con le vetrine accese e l'ingresso alla galleria. C'era nebbia nella piazza e quando vi arrivammo vicino alla facciata della cattedrale ci parve enorme e la pietra era bagnata. «Vuoi che entriamo?» «No», disse Catherine. «Continuammo a camminare». C'era un soldato in piedi con la ragazza nell'ombra di un contrafforte di pietra davanti a noi e gli passammo davanti. Erano stretti contro la pietra e lui l'aveva avvolta nella mantellina. «Sono come noi», dissi. «Nessuno è come noi», disse Catherine. Non alludeva alla felicità. «Vorrei che avessero un posto dove andare. Forse non gliene importerebbe niente. Non lo so. Tutti dovrebbero avere un posto dove andare». «Hanno la cattedrale», disse Catherine. Ora l'avevamo oltrepassata. Attraversammo l'estremità della piazza e ci voltammo a guardare la cattedrale. Era bella nella nebbia. Eravamo in piedi davanti al negozio di articoli di cuoio. C'erano stivali da cavallo, uno zaino e scarpe da sci in vetrina. Ogni articolo era diviso come in una mostra. Lo zaino in mezzo, gli stivali da una parte e gli scarponi dall'altra. Il cuoio era scuro e lucido d'olio come una sella usata. La luce elettrica faceva molti riflessi sull'opaco cuoio oleoso. «Una volta o l'altra andremo a sciare». «Tra 2 mesi si scierà a Mürren», disse Catherine. «Andiamoci». «Va bene», dissi. Oltrepassammo altre vetrine e svoltammo in una strada laterale. «Non sono mai passata per questa strada». «È la strada per cui venivo in ospedale», dissi. Era una strada stretta e ci tenemmo sulla destra. Molta gente passava nella nebbia. C'erano negozi e tutte le vetrine erano illuminate. Guardammo in una vetrina una pila di formaggi. Mi fermai davanti a un negozio di armi. «Vieni un momento, devo comprare un'arma». «Che specie di arma?» «Una pistola». Entrammo e mi slacciai il cinturone e lo posai con la fondina vuota sul banco. 2 donne erano dietro al banco. Le donne tirarono fuori parecchie pistole. «Deve stare qui dentro», dissi aprendo la fondina. Era una fondina di cuoio grigio e l'avevo comprata di seconda mano per portarla in città. «Hanno delle buone pistole?» chiese Catherine. «Sono tutte pressappoco lo stesso. Potrei provare questa?» chiesi la donna. «Qui non ho posto per sparare», disse, «ma è molto buona, non si sbaglia con quella». La feci scattare a vuoto e spinsi indietro l'otturatore. La molla era piuttosto dura ma rispondeva senza strappi. Mirai e la feci di nuovo scattare. «È usata», disse la donna. «Apparteneva a un ufficiale che era un ottimo tiratore». «Gliel'aveva venduta lei?» «Sì». come l'ha riavuta? Dal suo attendente. Forse riavrà la mia, dissi. Quanto costa? 50 lire, pochissimo. Bene, voglio due caricatori in più e una scatola di cartucce. Le tirò fuori di sotto il banco. Ha bisogno di una sciabola? Chiese. O qualche sciabola usata a buon prezzo. Vado al fronte, dissi. Ah, sì, allora non ha bisogno di una sciabola, disse. Pagai le cartucce e la pistola, riempii il caricatore e lo misi a posto. Misi la pistola nella fondina vuota, riempii di cartucce gli altri caricatori e li misi negli incavi di cuoio della fondina e poi mi affibbiai il cinturone. La pistola pesava molto sul cinturone. Però, pensai, era meglio avere una pistola d'ordinanza. Si possono sempre trovare i proiettili. Ora siamo proprio armati, dissi. Era una cosa che dovevo ricordare di fare. Qualcuno mi ha preso l'altra mentre andavo all'ospedale. Spero che sia una buona pistola, disse Catherine. Desidera altro? Mi chiese la donna. Credo di no. La pistola ha una tracolla, disse. L'ho notato. La donna voleva vendermi qualcos'altro. Non le serve un fischietto? Non credo. La donna salutò e uscimmo sul marciapiede. Catherine guardò la vetrina. La donna guardò fuori e ci fece un inchino. A che cosa servono quegli specchietti incastrati nel legno? Servono per attirare gli uccelli, li fanno frullare nel campo e le allodole li vedono e vengono fuori e gli italiani le uccidono. Sono un popolo ingegnoso, disse Catherine. Tu in America non spari alle allodole, vero caro? Non in modo particolare. Attraversammo la strada e incominciammo a camminare dall'altra parte. Ora sto meglio, disse Catherine. Stavo malissimo quando siamo usciti. Stiamo sempre bene quando stiamo insieme. Staremo sempre insieme. Sì, a parte il fatto che devo partire a mezzanotte. Non pensarci, caro. Camminavamo su per la strada. La nebbia rendeva gialle le luci. Non sei stanco? Disse Catherine. E tu? Io sto bene, è divertente camminare. Ma non camminiamo troppo. No. Svoltammo in una strada laterale dove non c'erano luci e camminammo nella strada. Mi fermai e baciai Catherine. Mentre la baciavo sentii che mi aveva posato una mano sulla spalla. Si era tirata addosso la mia mantella in modo che ci coprisse tutti e due. Eravamo in piedi nella strada contro il muro alto. Andiamo da qualche parte, dissi. Sì, disse Catherine. Camminammo per la strada finché sboccò in una strada più larga lungo un canale. Dall'altra parte c'era un muro di mattoni e delle case. Davanti a noi, in fondo alla strada, vidi un tram che attraversava un ponte. Il vetturino fermò il cavallo e abbassò la bandierina di metallo sul tassametro. Il mantice della carrozza era tirato su e c'erano gocce d'acqua sul cappotto del vetturino. Il cilindro di vernice scintillava nell'umidità. Ci affondammo insieme nel sedile e il mantice della carrozza lo rendeva buio. «Dove gli hai detto di andare?» «Alla stazione», dissi. «Davanti alla stazione c'è un albergo dove possiamo andare». Davanti all'albergo chiesi a Catherine di aspettare in carrozza mentre entravo a parlare al direttore. C'era un mucchio di stanze. Allora uscii, pagai il vetturino e Catherine e io entrammo insieme. Il direttore si inchinò indicandoci l'ascensore. C'era molto velluto rosso e ottone. Il direttore salì con noi in ascensore. «Monsieur e Madame desiderano cenare in camera?» «Sì». «Vuole farci portare il menù?» dissi. «Desiderano qualcosa di speciale per cena? Della cacciagione o un soufflé?» L'ascensore passò tre piani con un clic a ogni piano. Poi clicchettò e si fermò. «Che cacciagione c'è?» «Posso preparare un fagiano o una beccaccia?» «Beccaccia», dissi. Scendemmo il corridoio. Il tappeto era logoro. Vi erano molte porte. Il direttore si fermò e girò la chiave in una toppa e aprì la porta. «Ecco, una bella camera». Il direttore aprì le tende. «C'è la nebbia fuori», disse. La stanza era arredata in velluto rosso. C'erano molti specchi, due seggiole e un gran letto con la trapunta di satin. Una porta dava alla stanza da bagno. «Manderò su il menù», disse il direttore. Si inchinò e uscì. Mi avvicinai alla finestra e guardai fuori. Poi tirai un cordone che chiudeva le tende pesanti di velluto. Catherine era seduta sul letto e guardava un candeliere di vetro intagliato. Si era levata il cappello e i capelli le splendevano sotto la luce. Si vide in uno specchio e si mise le mani nei capelli. La vidi in altri tre specchi. Non aveva l'aria felice. Lasciò cadere la mantella sul letto. «Che cosa c'è, cara?» «Non mi ero mai sentita come una puttana», disse. Mi avvicinai alla finestra e scostai la tenda e guardai fuori. Non avevo pensato che andasse così. «Non sei una puttana». «Lo so, caro, ma non è bello sentirsi così». Aveva la voce asciutta e incolore. «Era il miglior albergo in cui potessimo andare», dissi. Guardai fuori della finestra. Di là della piazza c'erano le luci della stazione. C'erano carrozze che andavano per la strada e vidi gli alberi nel parco. Le luci dell'albergo splendevano sul selciato bagnato. «Diavolo», pensai, «dobbiamo litigare proprio adesso». «Vieni qui, per favore», disse Catherine. La voce non era più in colore. «Vieni qui, per favore. Sono di nuovo una brava ragazza». Guardai verso il letto. Stava sorridendo. Mi avvicinai e sedetti sul letto accanto a lei e la baciai. «Sei la mia brava ragazza. Sono certamente tua», disse. Dopo mangiato ci sentivamo bene e poi eravamo molto felici e presto la stanza ci parve la nostra casa. La mia stanza all'ospedale era stata la nostra casa e anche questa stanza era la nostra casa allo stesso modo. Catherine tenne la mia giubba sulle spalle mentre mangiavamo. Avevamo una gran fame, il pranzo era buono e bevemmo una bottiglia di Capri e una bottiglia di Saint-Estèphe. Lo bevvi quasi tutto io, ma anche Catherine ne beve un po' e la fece sentire così bene. Per cena mangiamo la beccaccia con soufflé di patate e puré di castagne e insalata e uno zabaglione per dessert. «È una bella stanza», disse Catherine. «È una stanza carina, avremmo dovuto stare qui tutto il tempo che siamo stati a Milano. È una stanza buffa, ma è simpatica». «Il vizio è una cosa magnifica», disse Catherine. «La gente che vi si getta ha buon gusto. Il velluto rosso è proprio splendido, è quello che ci vuole. E gli specchi sono molto belli. Sei una cara ragazza. Non so come sarebbe una stanza così quando ci si sveglia la mattina, ma è proprio una stanza splendida». Versai un altro bicchiere di Saint-Estèphe. «Vorrei fare qualcosa di veramente colpevole», disse Catherine. «Tutto quello che facciamo sembra così innocente e semplice. Non posso credere che facciamo qualcosa di male. Sei una ragazza straordinaria». «Ho soltanto fame. Ho una fame terribile. Sei una brava ragazza semplice», dissi. «Sono una ragazza semplice. Nessuno l'ha mai capito al di fuori di te. Una volta, quando ti avevo appena conosciuto, passai un pomeriggio a pensare di andare con te all'albergo Cavour e come sarebbe stato. È stata una bella sfacciataggine. Questo non è il Cavour, vero?» «No, non ci avrebbero lasciato entrare. Ci lasceranno entrare una volta o l'altra. Ma questa è la differenza tra noi. Io non ho mai pensato niente». «Proprio mai?» «Pochissimo», disse. «Sei una cara ragazza». Versai un altro bicchiere di vino. «Sono una ragazza molto semplice», disse Catherine. «Da principio non mi pareva. Credevo che tu fossi matta». «Ero un po' matta, ma non ero matta in un modo complicato. Non ti ho messo in imbarazzo, vero, caro?» «Il vino è una cosa straordinaria», dissi. «Fa dimenticare tutti i mali». «È buono», disse Catherine, «ma fa molto male alla gotta di mio padre». «Tu hai un padre?» «Sì», disse Catherine. «Alla gotta. Non è necessario che tu lo conosca. Tu non hai un padre?» «No», dissi. «Un patrigno. Mi sarà simpatico?» «Non è necessario che tu lo conosca. Viviamo così bene», disse Catherine. «Ormai non mi interessa altro. Sono così felice sposata con te». Il cameriere venne a portare via la roba. Dopo un po' eravamo molto silenziosi e sentivamo la pioggia. Giù sulla strada un'automobile suonò la tromba. «Ma alle mie spalle sento sempre del tempo il cocchio che mi incalza», dissi. «Conosco quella poesia», disse Catherine. «È di Marvel, ma parla di una ragazza che non voleva vivere con un uomo». Avevo la mente molto limpida e fredda e volevo parlare di fatti. «Dove andrai per avere il bambino?» «Non lo so. Il miglior posto che riuscirò a trovare». «Come ti sistemerai?» Meglio che potrò, non preoccuparti, caro. Può darsi che abbiamo molti bambini prima che la guerra sia finita. È quasi ora di andare. Lo so. Puoi dire che è ora, se vuoi. No. Allora non preoccuparti, caro. Siamo stati bene finora e adesso ti preoccupi. No, no. Ogni quanto scriverai, ogni giorno, ti leggono le lettere. Non conoscono abbastanza l'inglese perché ce ne preoccupiamo. Le farò molto confuse, disse Catherine, ma non troppo confuse. Le farò solo un po' confuse. Temo che dobbiamo muoverci per andare. Bene, caro. Mi dispiace andarmene dalla nostra bella casa. Anche a me. Ma dobbiamo andare. Bene. Ma non restiamo mai a lungo in casa nostra. Ci resteremo. Avrò una bella casa per te quando tornerai. Forse tornerò presto. Forse avrai una piccola ferita in un piede. O al lobo di un orecchio. No, voglio che le orecchie ti restino come sono. E i piedi, no, quelli sono già stati feriti. Dobbiamo andare, cara, davvero. Bene. Vai avanti. Scendemmo le scale invece di prendere l'ascensore. Il tappeto delle scale era logoro. Avevo pagato la cena quando l'avevano portata e il cameriere che l'aveva servita era seduto su una seggiola vicino alla porta. Balzò in piedi e si inchinò e andai con lui nella stanza accanto a pagare il conto per la camera. Il direttore mi ricordava come un amico e non aveva voluto il pagamento anticipato, ma quando era andato a dormire si era ricordato di mettere il cameriere di guardia alla porta in modo che non potesse uscire senza pagare. Immagino che questo fosse già successo, anche coi suoi amici. Uno aveva tanti amici in guerra. Chiesi al cameriere di cercarmi una carrozza e lui prese il pacco di Catherine che avevo in mano e uscì con un ombrello. Di là della vetrata lo vedemmo attraversare la strada nella pioggia. Ritornammo nella stanza laterale a guardare fuori della vetrata. «Come stai, Cat?» «Ho sonno. Io mi sento vuoto e ho fame. Hai qualcosa da mangiare?» «Sì, nel tascapane». Vidi la carrozza che si avvicinava. Si fermò con la testa del cavallo chinata nella pioggia e il cameriere scese, aprì l'ombrello e venne verso l'albergo. Gli andammo incontro sulla porta e scendemmo sotto l'ombrello per la via bagnata fino alla carrozza ferma al marciapiede rialzato. L'acqua scorreva nella cunetta. «Il suo pacco è sul sedile», disse il cameriere. Rimase lì con l'ombrello finché fummo entrati e gli ebbi dato la mancia. «Tante grazie. Buon viaggio», disse. Il cocchiere alzò le redini e il cavallo partì. Il cameriere si voltò sotto l'ombrello e si avviò verso l'albergo. Scendemmo nella strada e voltammo a sinistra, poi giungemmo girando a destra davanti alla stazione. C'erano due carabinieri in piedi sotto la luce al riparo della pioggia. La luce splendeva sulle loro lucerne. La pioggia era limpida e trasparente contro la luce della stazione. Un facchino uscì dal riparo della stazione con le spalle alzate nella pioggia. «No», dissi. «Grazie, non ho bisogno di te». Ritornò al riparo dell'archivolto. Mi voltai verso Catherine. Aveva il viso in ombra sotto il mantice della carrozza. «Potremmo salutarci? Non posso entrare?» «No». «Arrivederci, Cat. Gli dirai di portarmi all'ospedale?» «Sì». Dissi al vetturino l'indirizzo dove andare. «A noi». «Arrivederci», dissi. «Abbi cura di te e della piccola Catherine». «Arrivederci, caro. Arrivederci», dissi. Uscii sotto la pioggia e la carrozza partì. Catherine si affacciò e le vidi la faccia nella luce. Sorrise e mi salutò con la mano. La carrozza salì la strada. Catherine mi fece un gesto verso l'archivolto. Guardai. C'erano soltanto i due carabinieri e l'archivolto. Capii che voleva che mi togliessi dalla pioggia. Mi riparai e rimasi a guardare la carrozza che voltava all'angolo. Poi attraversai la stazione e scesi la banchina fino al treno. Il portiere era sulla piattaforma e mi cercava. Lo seguii nel treno, facendomi largo fra la gente e lungo il corridoio e attraverso una porta fin dove il mitragliere era seduto nell'angolo di uno scompartimento pieno. Il mio zaino e i tascapani erano sulla sua testa nella reticella del bagaglio. C'erano molti uomini in piedi in corridoio e tutti quelli nello scompartimento ci guardarono quando entrammo. Non c'erano abbastanza posti sul treno e tutti mi erano ostili. Il mitragliere si alzò per farmi sedere. Qualcuno mi batté sulla spalla. Mi voltai a guardare. Era un capitano di artiglieria molto alto e scarno, con una cicatrice rossa alla mascella. Aveva guardato dal finestrino del corridoio e poi era entrato. «Che cosa dice?» chiesi. Mi ero voltato. Gli ero di fronte. Era più alto di me e aveva il viso molto sottile sotto l'ombra della visiera, e la cicatrice era fresca e splendente. Nello scompartimento tutti mi guardarono. «Non può farlo», disse. «Non è permesso fare tenere il posto da un soldato». «Io l'ho fatto», inghiottì, e gli vidi il pomo d'Adamo andare su e poi giù. Il mitragliere era in piedi davanti al posto. Altri uomini guardavano attraverso il finestrino. Nello scompartimento nessuno parlò. «Non ha il diritto di farlo. Io sono arrivato 2 ore prima di lei». «Che cosa vuole?» «Un posto?» «Anch'io». Lo guardai in faccia e sentii che tutto lo scompartimento era contro di me. Non potevo dargli torto, lui aveva ragione, ma io volevo il posto. Nessuno disse niente. «Oh, diavolo», pensai. «Sieda, signor capitano», dissi. Il mitragliere si spostò e l'alto capitano sedette. Mi guardò. Pareva offeso, ma aveva il posto. «Prendi la mia roba», disse al mitragliere. Uscimmo in corridoio. Il treno era pieno e sapevo che non c'era speranza di trovare un posto. Diedi al portiere e al mitragliere 10 lire per uno. Attraversarono il corridoio e scesero sulla piattaforma guardando dai finestrini, ma non c'erano posti. «Forse qualcuno scenderà a Brescia», disse il portiere. «A Brescia ne saliranno degli altri», disse il mitragliere. Li salutai e ci stringemmo la mano e se ne andarono. Erano tutti e 2 scontenti. Dentro il treno eravamo tutti in piedi in corridoio quando il treno partì. Guardai la luce della stazione e lo scalo merci mentre uscivamo. Continuava a piovere e presto i finestrini furono bagnati e non si riuscì più a vedere fuori. Più tardi mi addormentai sul pavimento nel corridoio, mettendo prima il portafoglio con i denari e i documenti nella camicia e nei calzoni, in modo che fossero dentro la gamba delle mutande. Dormii tutta la notte, svegliandomi a Brescia e a Verona quando altra gente salì sul treno, ma riaddormentandomi subito. Avevo la testa su un tascapane e le braccia intorno all'altro e lo zaino a portata di mano, e dovevano tutti scavalcarmi se non volevano camminarmi addosso. Lungo tutto il corridoio c'era gente che dormiva per terra. Altri erano in piedi, aggrappati alle sbarre del finestrino o appoggiati contro le porte. Quel treno era sempre pieno.